È bello vedere che siamo uniti. È bello. È bello, dicevo, è bello perché è bellissimo. Ma è tutto bellissimo, ma che buon carattere che senti, ha la Raggi. Torino, guarda che mantenere il buon umore con i casini che succedono a Roma non è da poco. Hai idea di cosa sia governare questa città? Tu fai la spiritosa col tuo spirito sabaudo, ma facile fare la sindaca di Torino. La tua Appendino ha trovato la città perfetta. Perché siamo sabaudi. Comunque l'Appendino ha dovuto fare un lavoro mostruoso. Allora, prima sentiamo. Di tutto si è dovuta interfacciare con Fassino. Prima cosa. E poi, mentre voi siete ancora qua a cercare i membri della giunta, lei ha già pubblicato gli stipendi del suo staff ed è il meno pagato d'Italia. Dimmi se non è spirito sabaudo questo. Quindi viva l'Appendino. Io però, Cravetto, ti voglio solo dire che sarai anche sabauda, ma vivi a Roma, quindi purtroppo. Quindi io ti propongo di far venire anche l'Appendino a Roma e di mandare la Raggi a Torino e poi vediamo che succede. Beh, potrebbe funzionare perché la Raggi arriverebbe a Torino e la giunta è già fatta. Uè, Torino! Anche noi abbiamo fatto la giunta, anzi ne abbiamo fatte un sacco, ma che vuoi? Quello era uè Milano, ma hai me ragione. Lo prendo lo stesso. Brava! Comunque ci sono due donne sindaco, due donne che comandano, due donne al potere e quindi brave. Brave, hai ragione. Già solo per questo bravissime. A proposito di donne e potere, mi viene in mente un articolo uscito qualche giorno fa sul Corriere, uno studio fatto da McKinsey, che titolava «Perché le donne non fanno i capi?». Perché, Cravetto? Perché alla fine le donne che insistono su una promozione hanno il 30% di probabilità in più di ricevere una valutazione negativa sul carattere. E quindi? E quindi le donne hanno un brutto carattere. Eh no, scusami Cravetto, forse gli uomini ambiziosi sono uomini ambiziosi. Le donne che osano ambire sono delle rompipalle. Comunque la Raggi è sempre di buon carattere. Va bene Cravetto, ok, come dici te, buon così. Buon così. Io comunque ti voglio dire che ho letto un libro che parla di Roma, del potere, anche di quello femminile. C'è una cosa che le piace più di tutte le altre le cose al mondo: raccogliere con un pretesto tutto il personale di servizio di cui dispone. Lei è Elsa, la matriarca della famiglia Misiano, immortalata nell'incipit di Gin Tonica a Occhi Chiusi, il nuovo romanzo di Marco Ferrante, che attraverso le vicende dei Misiano racconta la decadenza e il vuoto morale dell'alta borghesia. Sullo sfondo di una Roma bellissima ma che non riesce più a nascondere la furore della decomposizione, ci sono Gianni, Paolo e Ranieri. Dei tre fratelli, professionisti affermati, bulimici di soldi e di successo, colpisce l'assenza di forza di volontà e l'incapacità di assumersi responsabilità. Ecco, Marco Ferrante, i personaggi maschili del tuo romanzo, in un modo o nell'altro, sono tutti allo sbando. Padri inconsistenti, in crisi di mezza età e comunque privi di coraggio. Le donne, invece, anche se vacue, volubili, appaiono comunque più forti degli uomini, che infatti gestiscono e comandano. È questa la realtà di oggi per te? Io ho cercato di raccontare un gruppo familiare allargato che ha delle responsabilità, diciamo, pubbliche e che però non riesce a essere coeso. In tutte le scelte che i singoli componenti di questa famiglia fanno, ognuno di loro pensa innanzitutto a se stesso. Se le donne si comportano in modo diverso, sì, forse sì, nel senso che un paio di queste donne tendono a essere più cooperative, però ce ne sono altrettante che non lo sono affatto e che anzi partecipano nello stesso modo al disfacimento del sistema familiare. Però sono le donne in qualche modo a dirigere questo sistema più degli uomini. Sì, probabilmente sì, però io credo che questo faccia parte della vita di relazioni, no? Tra maschi e femmine. Le donne hanno sempre un... La direzione che le cose prendono nelle relazioni di solito subiscono in qualche modo l'accelerazione femminile. E sicuramente in questo libro c'è questa componente qui. C'è una coppia che si lascia e poi si rimette insieme e la donna che lo decide e l'uomo tutto sommato glielo lascia fare. Segue. Nel tuo libro gli uomini comunque sono giornalisti, politici, avvocati, fiscalisti. Le donne sono escort, casalinghe di lusso, arredatrici d'interno, semmai matriarche. Insomma, un po' protagoniste in incognito. Mi sembra che la cosa sia dovuta al fatto che io ho scelto di raccontare tre fratelli, però la moglie per esempio di uno dei tre fratelli è molto attiva nella vita professionale, cosa che non piace però a sua suocera. Certo. Una donna di potere è seducente? Io credo che possa esserlo, però probabilmente anche a prescindere dal potere che esercita. Non lo so, ma la mia sensazione è che tutti stiano imparando a esercitare il loro fascino anche indipendentemente dal ruolo che si riveste nella società o più una cosa che accomuna maschi e femmine nella mia storia è che sono tutti nello stesso modo interessati alle cose, si comportano tutti come consapevoli del fatto che noi siamo le cose che abbiamo. In questo sono intimamente borghesi, cioè la loro dimensione sentimentale è molto, come possiamo dire, indipendente dal sesso di ciascuno. È la loro dimensione borghese che li porta in quella direzione lì. Marco Ferrante, Gin Tonica Occhi Chiusi, Giunti. Ma che bello, poi mi piace soprattutto il titolo, cioè Gin Tonica ad occhi chiuso, ma tu di chiusi. Solito, scusami, Gin Tonica ad occhi chiusi, me ne sono già bevuta uno, tu di solito quale gin ti piace? Cravetto, è presto ancora. Hai ragione, un po' presto. Torniamo alla realtà, quella del lavoro, dei bambini, del tempo che non c'è, dell'affanno, insomma, è tempo delle smamme. Viva la mamma, viva le donne. Sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Mamme e soprattutto smamme, quando è l'ultima volta che qualcuno vi ha regalato dei fiori? Fiori? Cravetto, stai scherzando? Cravetto, ma quanto sei antica, ancora ad aspettare i fiori, poi da una smamma. Scusami, sì. E poi, ma se la cosa che trovi più romantica è quando lui ti dice... porto i bambini a scuola oggi. Appunto, pensa come sono messa. Per cui ho deciso che i fiori, come forse anche a tutto il resto, ci penso da sola. Quindi oggi ti parlo di fiori 2.0. Che non sono io. Che non sei tu. Va bene. C'è un sito che si chiama floritifair.it, stupendo già il nome, dove puoi comprare i fiori online e ti arrivano a casa, fiori di stagione, bouquet, grandi, piccoli, colorati. Puoi fare anche l'abbonamento e... E quindi ti e arrivano... ogni giorno ti arrivano a domicilio a mazzi. Come hai detto? Fiori a mazzi. Va bene, Cravetto, Cravetto era buono il gin tonic di prima. Va bene, ma hai già provato quindi a mandarteli da sola? No, non ancora. E perché? Perché non so cosa scrivermi sul biglietto. Donata, buongiorno! Ciao Ciccine! Donata, oggi parliamo di donne al potere, come lei. Ecco Donata, ma lei com'è che riesce a conciliare tutto? Guarda, vi dico subito che io non concilio niente, perché la regola è semplice, o comandi o trombi. No, vabbè, no, Donata, ma l'amore, non Donata, il sentimento... Ciccine, l'amore, benvenute nel terzo millennio! Ha parlato la guerrierina della luce alla Santona. Tutte e due. Ma dove vivete? In una comune e la mattina salutate i cerbiatti. Ma... e bambi con voi. Donata, lei è un po' troppo disillusa però, ci spieghi perché? Cicina, parlo per esperienza, mica come voi dammine bianche che no. State lì a fare le cose del sentimento. Allora sentite questa, una volta mi geolocalizzo con uno fichissimo idraulico aperitivo che aveva ancora la borsa degli attrezzi, il massimo, il top. Io ero attaccata, tangata, ero tangatissima come sempre, pide fatto, mi squadra e mi fa: uè, ma tu che lavoro fai? E io sono manager della Galaxy con deleghe worldwide. Se gli dicevo che avevo una malattia venerea era più contento. Ma no, no, ma Donata, no. Sarà stato colpito dal suo ruolo. Non è voluto neanche salire a casa, l'hai capita l'ansia da prestazione? L'ho capita. E quindi Cicine, lo sai che c'è scritto ora sul mio profilo Tinder? Casalinga, casalinga forever. Ma no, lei è sempre eccessiva, Donata. Senti, appena dai retta a Donato. La donna che vuol comandare si aspetti la grana, ma non di trombare. Oh, se i giorni d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Giovani d'oggi valgono tanto. Federico Magnani, 22 anni, studente di comunicazione all'Università degli Studi di Pavia, ha creato TV Shows Manager, un sito che funziona come un vero e proprio calendario online che ti permette di non perdere gli appuntamenti con le tue serie TV preferite. In 2 anni ha già raggiunto 25.000 iscritti. Ciao Federico, mi spieghi come funziona TV Shows Manager? Dunque, il funzionamento del sito è molto semplice. L'utente accede al sito, crea un account completamente gratuito, aggiunge le serie che segue cercandole, c'è una barra di ricerca, e nel momento in cui l'utente le aggiunte, il sito crea un calendario mensile con tutti gli episodi, dove lui può segnarli come visti, può scaricarne i sottotitoli. Quindi anche gli episodi che dovranno uscire. Esatto, soprattutto gli episodi che in Italia non sono ancora usciti, che sono solamente disponibili sul web. Tu immagino che sei un appassionato sfegatato di serie TV. L'idea di creare un sito del genere è nata da una tua necessità personale, insomma non sapevi più come seguirle tutte? Esatto, in parte da quello. Io utilizzavo Episode Calendar, che era una sorta di versione rudimentale del mio sito. Il problema è che dopo qualche mese di utilizzo il gestore di quel sito ha deciso di farlo diventare a pagamento. Così io ho iniziato a creare il mio sito. Quindi il sito americano è diventato a pagamento e tu hai deciso di fartene uno, prima tutto per te, che poi hai reso pubblico. Ma hai creato qualche miglioria rispetto a quello americano? Sì, assolutamente. Ho cercato di creare il sito migliore possibile, quindi ho dato la possibilità alle persone di commentare le serie televisive, addirittura se una persona clicca su un episodio può vedere tutte le canzoni che la playlist, sono state sentite, come... esatto, mm-hmm. di ogni episodio. Però non solo, tu hai apportato anche la possibilità di sottotitolare le serie che non sono ancora tradotte in italiano, giusto? Esatto, io ho stretto accordi con alcuni siti, per cui il mio sito molto spesso, quindi circa una volta ogni 10 minuti, controlla su questi siti la presenza di sottotitoli e li importa nel database. In questo modo tutti gli utenti del mio sito, di fianco alla puntata, potranno avere la possibilità di scaricarne i sottotitoli in italiano. Quindi avere la traduzione immediata sull'episodio. Esatto. Senti Federico, ma sono più le donne o gli uomini gli appassionati di serie TV? Sono decisamente più le donne, soprattutto andiamo dai 18 ai 25 anni. Le ragazze in questa fascia d'età rappresentano la maggior parte dell'utenza del mio sito. Senti, io sono fuori da quella fascia d'età lì, però ho una serie americana che mi piace moltissimo e che seguo, che è Grey's Anatomy. Ecco, se vado sul tuo sito, che cosa trovo in più su questa serie? Troverai tutta la lista degli attori che figurano nel cast e soprattutto troverai tutti gli episodi non ancora usciti in Italia, e mi sembra che ci sia almeno una stagione di differenza tra la programmazione in Italia e quella statunitense. Ma qual è la serie che a te ti piace di più? Beh, io ultimamente ho un debole per una serie che si chiama You're the Worst, tradotto molto particolare. Tu sei il peggiore? Esatto, e tu sei il peggiore. E questa serie riguarda le vicende di un ragazzo e una ragazza che vivono in America e appunto hanno due caratteri molto molto particolari, che sono poi quelli che rendono interessante e divertente tutto il telefilm. È davvero una perla. Cravetto, scusa, fammi capire, ti stai programmando tutte le sere davanti alla tele? Yes. I fiori te li mandi da sola? Yes. E beh, sarà un lungo inverno, lunghissimo. Lunghissimo, si preannuncia una strage, mi devo inventare qualcos'altro, dici? Ma guarda, per esempio un cinema, ti ci porto io. Ok. I David di Donatella. Che poi sono io. Donatella, buongiorno. Lo sai che sono tutti contenti che ho ricominciato la mia rubrica? Pensa che per tutto il tempo che non l'ho fatta, la gente è andata meno nei cinemi. Hai capito? Donatella, senta, ma non è che per caso la gente è andata meno nei cinemi perché era estate? Allora, io lo capisco che magari tu hai problemi di lavoro, di amore, di età, di sesso, di famiglia, di grandissima invidia. Senta, Donatella, sì. Parliamo del film. Eh sì, E la verità sta in cielo. Ma com'è diventata saggia? Ma sei scema? È il titolo del film. La verità sta in cielo. Ma io scherzavo, Runatella. Ah, ecco. Allora lascia perdere, perché proprio non ti riesce. E forse hai ragione. Senta, La verità sta in cielo, il nuovo film di Roberto Faenza sul caso Orlandi. Ecco, brava. Perché parla proprio di questa ragazza, Emanuela Orlandi, che un giorno dice, esco di casa un attimo, e non torna più da 30 anni. Hai capito? Che c'è? Stai tranquilla. È tutto organizzato. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi. Ha capito? Lei è figlia di un tizio che lavora per i preti vaticani. Allora si scatenano un sacco di impicci che mettono in mezzo i servizi segreti, i turchi, i banda della Magliana, i terroristi. E poi comunque si capisce che per tutti questi anni ci hanno detto solo una vagonata di cazzate e di bugie. Bene, e? E quindi che non ti posso raccontare la fine perché non c'è. Donatella, non c'è, no, è un film d'inchiesta, è una ricostruzione di un pezzo di storia del nostro paese. Sì, è proprio una ricostruzione. Ma vale la pena vedere La verità sta in cielo di Roberto Faenza con Riccardo Scamarcio, Maya Sanza e Gloria Scarano? Sì, perché è un film di storia, di paese, di ricostruzione, di giallo, di mistero, di scomparsa, di cazzate. Sì, vale la pena. Grazie, Donatella. Prego, però alla fine non c'è, e questa cosa a me non mi va né in su né in giù. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Ma con questa sarà perché ti amo è arrivato lui, è arrivato Franco Schipani, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao ragazze, ciao Ale et Ale, le Kessler della radio. Oh, le Kessler. Abbiamo anche le calzamaglie, se vuoi. Allora è giusto che le facciamo vedere anche tutti i nostri radioascoltatori, perché io ho messo una telecamera sotto la scrivania, le stiamo postando su Twitter. Siamo è giusto rovinate. Che siamo vedano rovinate. Le vostre calzamaglie. Franco ha bevuto la stessa cosa che hai preso tu prima. Buona, era buona, eh? Comunque a me le Kessler mi mettono sempre il buon umore, perché mi fanno pensare a Don Lurio, nato il 15 novembre, come me, Scorpione, ascendente Scorpione, mia casa era lo Scorpione. Perché? Perché era l'unico personaggio dello spettacolo, uno dei pochi che era più basso di me, lo potevo guardare dall'alto in basso. Pensa, sono soddisfazioni. Sono soddisfazioni queste. Franco, tu ci hai messo un classico del 1981. I ricchi e poveri. I ricchi e poveri. Allora. Ma l'hai dedicata a noi? L'ho dedicata interamente a voi. Però non è fortuna, Franco, un po' di amore. Io a questo punto vi posso lasciare e torno a Torino. Baci a Torino. Quello era baci a Firenze. Vabbè. Ciao a tutti. Ciao Alessandra Cravetto, Franco Schipani. Sei pronto per questo 1981? Ready now for 1981. E allora restate con noi nel 1981 con Mix 24 Musica e Storia, subito dopo la pubblicità.